Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Vabbè, dunque, siamo quarti e quinti in classifica. Sì signori, stiamo parlando del Gran Premio, siamo in Cina. Vettel, Hamilton in testa. E questa è la situazione, credo che finirà entro le nove, insomma, tra poco, Quindi magari ve lo diamo in diretta. Entro le nove mi sembra un po' troppo ottimistico. Mancano 39 giri. Ma ci arriviamo. Ma van veloci, hai ragione. 800 24 00 24, vi aspettiamo cari ascoltatori intanto per giocare con noi, per vincere il premio di oggi, per indovinare un personaggio della settimana. Tra poco vi diamo l'indizio, intanto ricordiamo chi ha vinto il gioco di ieri, che l'abbiamo fatto in tempo, perché alla fine abbiamo avuto una telefonata e che ha spaccato un po' la giuria, sì, che poi si è ricomposta, però su Piercarlo da Milano, che combatte lo stress con un'oasi felina, ovvero ha una trentina, ricordo bene, una trentina di gatti, e quello è il suo luogo, il suo santuario antistress. Soprattutto glielo diamo sulla promessa di invitare altri amici a combattere lo stress anche loro, visto che di gatti ne ha 30, basta dividerli un po' per tutti, 4-5 gatti a testa, e passa la paura. E passa lo stress di tutta una regione. Di un'intera tribù. 800 24 00 24, invece vi aspettiamo per commentare le notizie di questa settimana e per indovinare un personaggio. Il primo indizio che vi andiamo a dare, cari ascoltatori, è questo: il personaggio ha raggiunto un traguardo. Quindi pensate a qualcosa che è accaduto negli ultimi 7 giorni e un personaggio che possa avere raggiunto un traguardo. Io mi zittisco perché giustamente il primo indizio è sempre a carico tuo e quindi dobbiamo essere piatti, lisci, senza aggiungere fronzoli, perché sennò il notaio. Ma sei stato buono, sei stato buono secondo me invece questo giro. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack. Questo è Donald Trump e naturalmente iniziamo non con delle buone notizie. No. Lo riconosci dall'accento Donald Trump, vero? Sì. Vabbè, l'annuncio dell'attacco in Siria, non stiamo lì ad aggiungere niente, anche perché non siamo in grado di aggiungere granché. Vi facciamo però sentire invece l'analisi interessante di Federico Rampini, che spiega questa mossa di Donald Trump in un modo magari diverso a quello che avrei potuto sentire altrove, in chiave di politica interna. Sentiamolo qua. Questo presidente è inseguito dal tempo della sua elezione dai sospetti di essere in qualche modo alla Casa Bianca grazie a Putin, grazie alle interferenze russe in campagna elettorale. Beh, questo intervento militare che lo mette in rotta di collisione aperta e perfino potenzialmente violenta con la Russia è in qualche modo fa piazza pulita di quei sospetti. Tradizionalmente un presidente che lancia una offensiva militare all'estero vede ricompattarsi attorno a lui un certo consenso nazionale. Non a caso i democratici sono abbastanza disponibili, abbastanza positivi, almeno sul primo raid missilistico americano contro Assad, e questa è una novità vera in politica interna dopo 3 mesi in cui Trump aveva accumulato disfatte. Senti come dice Trump. Sì. Io non riuscirò mai a dirlo. Mi viene da aggiungere, Rampini dice che questo fa piazza pulita di tutti i sospetti di Trump dei suoi rapporti con la Russia. I complottisti potrebbero dire, o forse è una mossa fatta apposta di modo da far finta di far piazza pulita di tutti i sospetti del fatto che Trump e Putin invece siano d'accordo. Oh, tra poco il primo si può fare di oggi, è un si può fare straordinario, quindi restate con noi perché è un personaggio incredibile che ci racconta la cronaca, l'attualità, una sua storia personale, un punto di vista rovesciato rispetto al solito. Poi voglio dire un'altra cosa, ho visto lo spettacolo del nostro collega Federico Taddia, il maschio inutile con la banda Osiris, molto divertente, con Telmo Pievani che spiega l'evoluzione, la natura, il maschio, la femmina, la famiglia, tutto in con un punto di vista da scienziato divertente. È un bellissimo spettacolo, andatelo a vedere. Oggi a Milano all'Elfo c'è un'altra replica, il maschio inutile. Adesso il primo si può fare della settimana. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo, non credo nelle divise, né tempo. Allora, se c'è uno che pensa positivo è proprio lui, Antonio Bertolotto, imprenditore. Forse lo avrete già sentito a questi microfoni perché lo abbiamo già intervistato. Noi di sicuro l'abbiamo sentito più volte. Per la sua marcia per l'Italia, per portare avanti le ragioni delle imprese e di chi lavora. Adesso con tutt'altra questione. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi, come andiamo? Buongiorno, bene. Bene, noi andiamo bene, andiamo direi abbastanza bene. Bisogna Antonio, farla andare bene. Bisogna sempre farla andare bene. Poi fra l'altro quella marcia che lei ha fatto tempo fa, come è andata a finire? Ha raccolto un po' di sensibilità? Non è che vuol fondare un partito anche lei? Guardi, ho raccolto molta sensibilità da parte del cittadino normale come me, sì, e anche da parte di quei burocrati e politici che noi critichiamo tutti i giorni. C'è tanta brava gente tra politici e burocrati, però oggi noi siamo cattolici cristiani, bisogna andare avanti con il perdono, bisogna andare avanti con l'esempio e con le azioni. Ecco, lei è già arrivato. Non lo abbiamo, ma esempi pochi, azioni nessuna. Bravo, azioni. Allora, ecco, veniamo a quella notizia che la riguarda, Antonio. La notizia è questa: lei ha subito una rapina in casa che ha coinvolto tutta la sua famiglia. Lei sta a Cuneo, giusto? Dalle parti di Cuneo? Vicino a Cuneo. Vicino a Cuneo. E dopo aver subito questa rapina ci ha pensato un po' e poi ha detto: io vorrei far qualcosa, vorrei cambiare un po' la prospettiva. Anziché prendermela e basta con i rapinatori, con chi mi ha fatto del male, vorrei dare loro addirittura una possibilità, un'opportunità. Se loro mi restituiscono quello che mi hanno rubato, mi chiedono scusa, prima me e la mia devono famiglia pagare la pena con lo Stato. Devono pagare la pena con lo Stato. Sono disposta addirittura, lei è un imprenditore, ad assumerli. Perché ha avuto questa idea? Guardi, mentre uno di quei re mi puntava cacciavite grosso al cuore e mi stringeva il braccio, ho detto tra di me: ma forte come sei, guarda quanto lavoro potresti fare al posto di venire qua a fare. Ah, su, subito, cioè, posso dire che è veramente solo lei che può fare un pensiero così straordinario. Perché mi ha fatto anche male, no? Cioè, nel momento in cui uno dei malviventi, che se non ricordo male erano in tre, che sono entrati in casa sua, quattro in casa, è un comando. Quattro in casa e che avevano anche già malmenato sua moglie e sua figlia, sì, giusto? Sì, e poi le puntavano un cacciavite al cuore. Lei ha detto: ma insomma, con tutte queste braccia mi sembrano braccia rubate al lavoro. Questo gli ha detto, sì, ha pensato. Rubate al lavoro, rubate la capacità di avere una maestranza, di avere una manipolazione di qualcosa. Guarda, io c'è questo che rimane, lo fanno i cinesi. Fino a 20 anni fa pensavamo che erano dei morti di fame, sono dei fenomeni. L'uomo creato da Dio è terra, e ci sprechiamo in queste cose qua, non ci aiutiamo, non facciamo le cose che dobbiamo fare. Antonio, lei è molto mia moglie, sì, lei è molto credente, Antonio, no? Scusi un attimo, Antonio, lei è molto credente da quello che per come, certo, la conosciamo. Questo, certo, conta molto, me l'ha dato perché io ho avuto la, sì, cioè, che, quindi lei interpreta, in qualche modo la fede anche in questo modo, cioè dare un'altra opportunità, porgere veramente l'altra guancia, è anche un po' questo? Però con l'azione, e nell'azione ci sono leggi speciali, perché siamo in guerra, signore. Noi siamo in guerra, non ce ne rendiamo conto. Siamo di nuovo invasi come venivamo invasi una volta dai barbari, dal nord e dal sud. Ci venivano, ci attaccavano i comuni e le case, si rapinavano, si portavano via le donne. Siamo ritornati a ciò che capitava 1000 anni fa. No, però un momento, non siamo in guerra, nel senso che sta dicendo è la questione dell'invasione, non penso questo, giusto? Questo per me è una guerra. Noi produciamo armi e andiamo a fare la guerra a casa loro, per portarli via, come da 500 anni che è scappato. Fino al 1500 noi si commercializzava con i popoli del mare nostro. C'erano le guerre tra stati. Adesso sono 500 anni che noi li stiamo depredando, che abbiamo legittimati noi a fare questo. Noi dobbiamo andare giù, fare un grande piano Marshall per l'Africa. Lei pensi come dall'ovest all'est negli Stati Uniti, cosa ha fatto? Ha portato ferrovie, ha portato strade. Noi dobbiamo fare, aiutare questi popoli a fare la est-ovest dell'Africa e a fare le transversali giù. Adesso Antonio ci spiegherà meglio, dopo la pausa sul traffico, come intende aiutare queste persone che l'hanno rapinata, perché cosa spera di ottenere, se non pensa per esempio che qualcuno possa approfittarsi anche della sua generosità, e soprattutto se ha avuto qualche notizia, perché questa offerta potrebbe anche essere interessante, insomma, se è fatto vivo qualcuno oppure no. Traffico e poi ascoltatori 800 24 00 24, cosa ne pensate di un uomo come Antonio Bertolotto, che può sembrare una persona strana, stravagante, anche un po' folle, ma è titolare di un'impresa, un imprenditore, sta sul mercato, dà lavoro a un sacco di persone, quindi non è esattamente un folle, che reagisce in questo modo a una rapina, vuole offrire un lavoro a chi l'ha rapinato in casa sua. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri, che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. E va bene, lo crede anche Antonio Bertolotto, che tra il male e il bene è più forte il bene, tanto che questo signore, quest'uomo, questo imprenditore di Cuneo rapinato in casa sua, ha deciso ai rapinatori di offrirgli un'opportunità. Se tornano, restituiscono la refurtiva, un orologio, chiedono scusa e pagano il loro debito con la giustizia, lui è pronto ad offrirgli un lavoro. Che lei è il titolare di un'impresa, no Antonio? Di che impresa ha? Abbiamo un'impresa, si chiama la Marco Polo Engineering S.P.A. e produciamo, costruiamo impianti per produrre energia rinnovabile bonificando le discariche che producono un gas tossico nocivo che va distrutto. E quindi anche in un settore anche importante come quello dell'ambiente. Si è fatto vivo qualcuno dopo questa? Ha avuto qualche notizia diretta, indiretta? No. I carabinieri sono stati, guardi, non ho parole, c'erano stati qua in casa poi fino alle 2, ci hanno aiutato, stanno facendo le indagini e non voglio mettermi di mezzo. Però noi dobbiamo dare di più a questi signori qua che ci difendono, perché sono sottopagati, ma sa che fanno dalle 14 alle 15, 16 ore al giorno, sono sempre nei malzenti. Certo, beh, giusto, questo è giusto, bisogna sempre ricordarlo. Io però, Antonio, le voglio chiedere anche un'altra cosa. Cosa pensa lei? Perché lei ha reagito così. Intanto, secondo me, ha fatto benissimo a reagire non in maniera violenta, non tirare fuori... Ma io ho parlato con loro, gli parlavo, dicevo, ma raga, ma cosa fate? Ma vi rendete conto di cosa state facendo? Ah, e loro? Certo, siete... loro non parlavano. Stai zitto, poi mi sono messo a urlare. Ma parlavano italiano loro? Italiano, ma un italiano che... Male, italiano male. Sembravano stranieri. Sembravano stranieri, sì. Ma però cosa pensa Antonio di chi invece reagisce in maniera completamente diversa? Perché sa che c'è tutto un dibattito sulla... Ognuno è libero di fare cosa vuole, di armarsi. Sì. Se chi entra in una casa per aggredire e fare queste cose qua deve anche sapere che rischia anche la vita. E secondo me chi spara in casa sua non deve essere accusato, non deve neanche avere il processo. Però io consiglio di non armarsi. pensa un po' cosa vuol dire ammazzare una persona. In casa tua avere poi il sangue lì, avere il rimorso della coscienza, avere i familiari che poi dopo di questi signori non ti lasciano più vivere. Cioè inizia un calvario, bisogna parlare con questa gente. Se vi assalgono, ha molta ragione. Infatti ricordiamo che in realtà non è che in casa propria si possa sparare, nel senso che vale per la legittima difesa nel momento che entra qualcuno con una pistola, non è che sennò diventa che uno può sparare al postino. No, assolutamente. Io dico, chi assala una casa deve sapere che fa un assalto a una casa e chi c'è dentro può reagire. Io consiglio di reagire, diciamo, non facendo niente, perché ti picchiano mica se non fai niente. Poi ti picchiano dopo, perché prima vogliono prendere... Poi c'è un progetto, ti studiano prima per settimane, per giorni, per mesi. Poi sanno le tue abitudini. Loro da me sono entrati perché io ho aperto la porta, perché a casa mia non si entra, perché ho dei sistemi di allarme che non si entra. Solo che avevamo tutto spento, stavamo mangiando cena. Ci hanno guardato per 40 minuti e passa dalle finestre. Di entrare in azione. Senta, sì, ma se qualora, Antonio, qualora queste persone dovessero veramente prendere in considerazione la sua offerta, no? e farsi vivi, ci ha pensato, no? Che effetto le farebbe rivedere queste persone? Io ho già fatto un progetto. Faccio una società apposta, li faccio entrare in questa società e poi li mando a fare dei lavori sui miei impianti, lavori formativi, per un anno. Io ho dei capi impianto, ho dei ragazzi dalla Sicilia, a Treviso, perché abbiamo decine e decine di centrali elettriche, che sono straordinari. Perché la mia azienda si chiama Marco Polo. Marco Polo vuol dire tanto. Io ho dato quel nome a questa azienda perché per me i tre grandi del mondo sono stati i prezzi, i viaggiatori e i guerrafondai, no? I guerrafondai, Giulio Cesare, Alessandro, i viaggiatori, Magellano, Marco Polo e gli evangelisti, che andando fuori hanno portato la cultura nostra agli altri e hanno portato a casa nostra la cultura degli altri. Per quello ho dato il nome Marco Polo alla mia azienda. La mia azienda si chiama Italia. E noi siamo i primi della classe, abbiamo insegnato al mondo a camminare e adesso abbiamo perso le regole, siamo diventati bonisti. Bertolotto, se lo lasci parlare parte per la tangente e ti fa un comizio. No. Senta, un'altra cosa però, cosa dice la gente che abita intorno a lei, quelli del quartiere, quelli delle case attorno, i suoi concittadini, avranno commentato, lei è un personaggio anche magari conosciuto, cosa hanno detto? Guardi, l'hanno preso per un pazzo che vuole dare un lavoro a chi l'ha rapinato? Mi conoscono bene, quando testo una cosa vado avanti fino in fuori. Soltanto però con cose positive e nel rispetto delle regole e delle leggi, perché bisogna avere fiducia, signori, delle istituzioni, bisogna avere fiducia dello Stato, perché lo Stato siamo noi e bisogna che cambiamo. Io ho finito di rifondare una compagnia della Civica Italia per prendere in mano questo paese e poi ritornare alla politica con il debito del pubblico dimezzato e i costi della politica dimezzati, perché non si può andare avanti così. Siamo un paese che è andato, siamo stracotti. Guardi, io se posso dire una cosa, il lato migliore di questa storia mi sembra che lei dopo un'aggressione ci sta spiegando che in realtà si può anche ragionare, perché di solito un'aggressione viene usata solamente per giustificare qualsiasi istinto di sparare, di reagire, e invece giustamente si mette a ragionare, poi ognuno la pensi come vuole e questo mi sembra il vero dato. Nonostante uno abbia avuto un coltello puntato al cuore, si mette a ragionare e dice questo è un problema che va al di là di quello che è accaduto e bisogna risolverlo, quindi io le faccio i complimenti. Lo ringraziamo Antonio Bertolotto e lo salutiamo, grazie. Questa era la storia, cari ascoltatori, 800 24 00 24, se volete commentarla noi siamo qua. Intanto Francesco da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Vi ascolto sempre. Bene, continua così? Sì, e io pensavo a Jovanotti, perché ho letto sul Messaggero, c'era una pagina intera che vuole raggiungere il traguardo di 3.000 chilometri, i Paesi Bassi, l'Olanda, la Svezia, Norvegia. E quindi il personaggio secondo te potrebbe essere lui, ma non era lui, non era Jovanotti, anche perché il traguardo, come dicevi giustamente tu, lo deve ancora raggiungere. Credo che non abbia ancora finito questa impresa, quindi non era lui il personaggio. Comunque grazie per aver rotto il ghiaccio questa mattina. Michel, credo, da Vicenza, lo sentiamo dopo il giornale radio. Allora, Vettel è terzo, questo lo così, ecco, la butto lì e possiamo andare al giornale radio. Stiamo andando migliorando con Vettel. Terzo, Raikkonen quinto. 800 24 00 24, personaggio della settimana, ha raggiunto un traguardo, ci risentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, padiglione 3. trentodoc.com. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Può fare. Cronache da un paese migliore. Ad oggi è l'associazione Rousseau che si occupa del Movimento 5 Stelle. La Casaleggio Associati ha prodotto Rousseau e l'ha donato che è all'associazione. E l'ha donato al Movimento 5 Stelle. La Casaleggio Associati si occupa di strategie di rete per i propri clienti. Che facciamo un mega spottone stasera al Movimento 5 Stelle Casaleggio. E va bene, cari ascoltatori, eccoci qua. Buongiorno ad Alessio Maurizi, ben ritrovati. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Alla fine la Gruber ha detto: stiamo facendo uno spottone all'ingresso in TV di Casaleggio, Davide Casaleggio, perché in effetti c'erano De Masi e Nuzzi a fare domande a Casaleggio, due personalità che sono vicine in qualche modo al Movimento 5 Stelle. Qualcuno dice da uomo invisibile a uomo immagine, già così in un colpo solo. Esatto, qualcuno dice che lui sia l'anti Di Maio. E in sì. Più oggi su Repubblica leggiamo che Mentana dice: sono quello di prima, non sono diventato casaleggiano perché è a Ivrea, dove si riunisce il Movimento 5 Stelle. Sai cosa sembrava un po' Casaleggio? Quello che dava queste risposte molto sibilline, te lo dico perché tu mi hai raccontato che non lo hai visto, dava queste risposte sibilline così, no? Sembrava, sai quelle persone che non dicendo, chissà quanto deve essere intelligente questo, perché parlava poco, però poi bisogna vedere, perché non è detto che parlando poco si vada ipnotico, Si dice che sia ipnotico. Va bene, una buona notizia ce l'abbiamo di questa settimana, sono solo, ahimè, 25 milioni di euro stanziati dal governo. Questo è l'annuncio del premier Gentiloni su Casa Italia, uno dei tanti annunci di renziana memoria. 10 progetti in 10 città pilota per rendere antisismiche edifici pubblici con tecnologie moderne, coinvolto anche Renzo Piano. Sentiamo velocemente. Abbiamo appena approvato il decreto sul terremoto e martedì nella prossima operazione finanziaria inseriremo anche diverse risorse per la ricostruzione, oltre 1 miliardo l'anno. Vorremmo lavorare molto, molto di più, oltre che sull'emergenza, sulla cura, sulla ricostruzione, sulla prevenzione. E adesso è domenica, facciamo la mini classifica delle buone notizie di questa settimana che abbiamo selezionato per voi. Certo. Allora, cominciamo con questa notizia qua che vogliamo celebrare. Alla Basilica di Santo Spirito a Firenze, il crocifisso scolpito dal Cristo di Michelangelo, il famoso Cristo di Michelangelo, sentite qua, finalmente ha trovato una nuova collocazione che permetterà ai visitatori di osservarlo da ogni angolazione, perché prima era schiacciato in un angolo e non si poteva vedere. Sembra una cosa, però invece è un'ottima notizia. C'erano studenti dell'arte disperati perché non si poteva vedere. Adesso l'hanno messo che si può vedere in tutti gli angoli. In tutti i 360 quarto gradi. Posto, quarta notizia, siamo sul podio. Terzo posto, storica sentenza della Cassazione. Nei giorni scorsi, infatti, la Cassazione ha condannato per la prima volta una famiglia per molestie olfattive. Aiaiai. Ovvero quando uno cucina di notte con 700 kg d'aglio e curry. Questa è una buona notizia da un lato, perché viene riconosciuto il reato, se vogliamo, di molestie olfattive, che a volte è terribile. Però non bisogna abusarne, nel senso che non è che se il vostro vicino usa il curry e voi siete abituati invece alla pasta al pesto, allora bisogna denunciarlo. Siccome ci sono 1 milione di cause ogni anno per liti tra i vicini, allertiamo che da un lato ci sono finalmente le molestie olfattive, però che non bisogna assolutamente abusarne se il vostro vicino è straniero e decide di cucinare qualcosa che voi non riconoscete. Seconda posizione, siamo vicinissimi alla notizia più importante della settimana. Nasce all'Università di Catania il drone antiterrorismo, realizzato da un pool di docenti dell'Università di Catania, ma anche altrove. Si è classificato alla competizione internazionale di robotica Robotics Challenge. Questo drone è capace di fare varie cose. Può riconoscere rapidamente un autoveicolo in movimento in zone vietate. Il drone, atterrandoci sopra, potrebbe bloccare il terrorista attraverso gas lacrimogeni e fumogeni che inserirebbe all'interno dell'automobile. Poi si può utilizzare anche in agricoltura per la protezione civile. Vedi la scienza italiana. Bravi. I droni. E quindi al primo posto abbiamo l'Istat, che dice che il 2016 è l'anno di ripresa del potere d'acquisto delle famiglie, con una dinamica che non si vedeva da 15 anni. Il potere d'acquisto è aumentato dell'1,6% e quindi è il rialzo maggiore dal 2011, quindi appunto da 15 anni. Oh, poi questa va anche in questo, va aggiunto giustamente l'appunto del Codacons, che dice che in parte questo risultato è anche un'illusione ottica, perché la deflazione è colpa, diciamo, della deflazione, del fatto che i prezzi al dettaglio sono crollati, e quindi in realtà non è che c'è un vero e onesto aumento. Vabbè, quelli del Codacons però ci devono sempre trovare il pelo nell'uovo, deprimerci. È importante, perché sennò uno dice: ma a me non mi sembra in questo momento di avere più potere d'acquisto. C'è più potere d'acquisto perché c'è stata molto meno inflazione. Addirittura l'inflazione di quest'anno è stata dello meno 0,1%. Maria Teresa da Firenze, buongiorno, benvenuta. È caduta Michelle, l'avevamo anticipato anche prima, da Vicenza, benvenuto a te. Buongiorno. Michele o Michelle, non so esattamente. Michael. Ecco, Michael. Bravo. Nessuna delle due. Vai Michael. Cosa volevi dire, Michael? È il figlio, sì, di Casaleggio, Davide. Cosa? Stiamo parlando del personaggio della settimana? Ha scalato l'Everest, sì. Sì. Ha raggiunto la vetta. Ah, ha raggiunto la vetta, è andato in TV e il suo traguardo lo ha raggiunto, perché in effetti ha fatto anche questo. È stata la prima intervista televisiva tutto tondo per lui, ma non era lui il personaggio a cui avevamo pensato, caro Michael. Quindi grazie di aver chiamato, grazie comunque di averci ricordato anche questa cosa che avevamo appena ricordato noi, per la verità. Gabriella da Varese, buongiorno, è caduta anche lei, cadono tutti stamattina. Traffico 800 24 00 24. Poi mi dite se dobbiamo dare un indizio, lo diamo dopo il secondo indizio. Il primo è che il personaggio ha raggiunto un traguardo, tra poco anche un altro. Il secondo indizio. Aiutino, vai. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Allora, andiamo, riproviamo con Maria Teresa da Firenze. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Eccola qua. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Cosa volevi intervenire? La mia risposta è, sì, Renzi, Matteo Renzi. Che ha raggiunto quello che desiderava, cioè se lui il primo nel suo partito per essere rappresentato alle primarie. Ha vinto nel voto dei circoli del PD il primo, sì, giro, diciamo, di quello che poi, sì, sono, sì, tutte le, sì, primarie, certo, che poi, certo, verranno, certo, votate, certo, ai gazebo. A grazie, brava Maria Teresa. Non era lui. Non era lui, mi dispiace. No, no, no. Bene, era troppo facile raggiungere questo traguardo, perché in effetti è notizia. Sì. Ce l'aspettavamo già, ci stava, tutti. Ci stava, ma non era lui. Facciamo anche Gabriella da Varese, ce l'abbiamo velocemente. Vai Gabriella. Pronto? Vai, buongiorno. Buongiorno. Niente, io avevo chiamato per così, per congratularmi con voi e per dire il mio parere su alcune cose che ho sentito. Prego, vai. E ho sentito quel signore che parlava del fatto che quando voleva dare il lavoro a quel, insomma, Antonio quindi, Bertolotto, sì, sì. Non lo so, forse ha ragione. Però non è, il problema è molto più grande, insomma, non è solo il fatto di voler aiutare queste persone, sono queste persone che non vogliono essere aiutati. Ma il problema è grandissimo. A noi interessava farvi sentire un punto di vista diverso, raccontare una storia. D'altra parte è lui che ha deciso di prenderla così, quindi bisognava raccontarla questa storia. E se posso dire, lei dice che il problema è molto diverso, però lei dice che il problema è più grave, ma Bertolotto ha subito un'infrazione in casa e, più grave di così. E parla in questo modo, quindi non è uno che parla dicendo gli altri dovrebbero, parla per se stesso dicendo io ho subito un'aggressione eppure adesso mi metto a ragionare, non è che penso che semplicemente bisogna ammazzarli. Lui ha detto che capisce, un lavoro. No, capisce anche chi invece dovesse reagire in maniera diversa, questo lo ha detto, però lui niente, l'ha presa così, che dobbiamo farci? Gabriella, prego, vai, chiudi l'intervento. Va bene. Ah no, grazie. Chiudi, certo. volevo darti ancora qualche secondo per... Sì, no, io ho fatto che ho 70 anni, ho passato la mia vita con grandi difficoltà e magari avessi trovato una persona così disponibile. Vedi molto a volte. Dura. Ma perché giusto. Nella vita chi ci dà delle opportunità non bisognerebbe, sì, non si ringrazia mai abbastanza, non ci no, si pensa mai vero, abbastanza. È vero. E quindi onore a Bertolotto anche da questo punto di vista. Anche se non sono completamente d'accordo, però Devo ammettere che ci vorrebbero più persone così. Questo ci sta. Perfetto. Cioè, non ho capito, non sei d'accordo nel senso che tu non avresti fatto come lui, questo mi sembra chiaro, o non sei d'accordo che Bertolotto abbia deciso lui per se stesso di dare un'opportunità a lui e ai suoi rapinatori? No, io non gli avrei dato. Cioè, tu non l'avresti fatto, ma il fatto che lo faccia lui. Vorrei che pagassero anche perché queste persone sono molto violente. Cioè, non è come una volta, entravano, rubavano, spaccavano i mobili e se ne andavano. Sì. Adesso ho visto persone anziane di 90 anni. Ok, ma il picchiate. Fatto che lo faccia lui sui suoi di rapinatori, questo sei contrario anche a questo? Oppure lui, secondo te, per se stesso, come dire, è legittimato a fare questo? Lui è legittimato. Sono molto... non credo che succederà mai. Questo è probabile, perché non si faranno vivi molto probabilmente. Grazie Gabriella. Diamo un secondo indizio per gli ascoltatori. Il secondo indizio del personaggio della settimana che stiamo cercando è che è impegnato su più fronti. Allora, No Limit, perché vogliamo parlarvi di questa importante notizia. Disabili No Limits salva il sogno dei ragazzi con disabilità. Si tratta di una campagna con un numero a cui si può donare al 45518 dal 7 aprile fino al 24 aprile. Quindi è ora. Questo è il adesso momento. Ripetiamo questo importante numero. 45518. La testimonial di questa campagna, che in realtà è lei stessa la promotrice, un volto, un atleta, un personaggio incredibile, Giusy Versace, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Vabbè, avete già detto tutto voi. Abbiamo fatto tutto voi. No, ma adesso siamo portati avanti perché sappiamo che domenica mattina è sempre difficile. Per voi stare svegli, invece noi che ci siamo abituati sembriamo un po' più svegli. No, questo numero dobbiamo dirlo almeno... 45518, 45518. Dobbiamo dirlo almeno 15, 16, 17 volte prima della fine dell'intervista. Che bello, che bello. Vi lobbo, come si suol dire. Ecco qua. Senti, perché nasce questa... Sappiamo che sei naturalmente impegnata su questo fronte per dare ad altri la possibilità che hai avuto tu in qualche modo, no Giusy? Guarda, proverò a sintetizzare in maniera molto molto molto banale. Lo Stato ad oggi non copre ausili evoluti. È vero che la scienza e la tecnologia fa progressi, però è anche vero che questi ausili hanno dei costi elevati e purtroppo buona parte, soprattutto quelli sportivi, non sono neanche menzionati nel nomenclatore tariffario nazionale che viene... Cioè quasi come se non esistessero. Esatto, la cosa che più mi rattrista è che la parte, diciamo, lo sport in generale è una grande terapia per tutti, soprattutto per chi vive con una disabilità. La cosa brutta è che un disabile che vuole fare sport lasciamo stare se a livello agonistico o meno, perché quello poi uno può scegliere se farlo o non farlo a livello agonistico, però uno dovrebbe avere il diritto di decidere di fare sport. Invece verissimo, hai detto tu, è una terapia, non è un lusso, non è solo un divertimento come magari può essere per chi ha tutte le possibilità. Per chi è disabile invece fare sport diventa una vera terapia, diventa quasi una cura. Tu sei riuscito a far correre la Stramilano ad un ragazzo, vero? Che non l'aveva mai potuto farlo. Un po' abbiamo studiato. Avete studiato, eh? Siamo sulla terra. Abbiamo anche un sacco di domande. Perché, per esempio, questa cosa che ci si chiede sempre è quanto costa. Perché giustamente uno vede gli atleti paraolimpici e hai la sensazione che abbiano degli ausili appunto evoluti, come li chiamavi tu, che hanno dei costi elevatissimi. Quindi ci chiedevamo quanto costa. Cioè, è una cosa che veramente riusciremo a permettere a tutti di poter camminare con le proprie gambe? Ma sì, guarda, senza estremizzare. Io posso fare un esempio dei piedi, chiaramente. Certo. Avendo io, ecco, per chi non mi conoscesse, io ho perso le gambe in un incidente stradale 11 anni fa e ho due gambe finte, con cui, ringraziando Dio, io vado in motorino, vado sui carri, sono tornata a guidare, faccio di tutto, ballo, corro. Vai anche sui tacchi, posso dirlo? E questo è importante, grande conquista. È certo, perché qualcuno donna. Esattamente, perché poi spesso sono anche queste cose. Uno pensa che sia una cosa in più, ma la possibilità di tornare sui tacchi per una donna senza gambe penso che sia incredibile. Non mi vergogno a dirlo, ho pianto. Mi sono emozionata quando mi sono guardata allo specchio. Wow, certo. Sono piccole cose che comunque aiutano anche a ricostruire non solo un equilibrio, ma anche come dire, nuovi obiettivi di vita, certo. Perché poi non puoi più tornare indietro, quindi devi solo guardare avanti. Scusa, ecco, Giusy, scusa Giusy, 4-5-5-1-8, così io intanto dico 4-5-5-1-8, donate, perché potete dare la possibilità con un SMS anche ad altre persone di avere accesso a queste protesi che, come diciamo, sono molto costose. La cosa che mi chiedo è quante persone possono permetterselo. Ma allora, guarda, questo chiaramente io non lo so, perché... Certo. Però i piedi, faccio un esempio, no? Ci sono tanti tipi di piedi che consentono di ammortizzare, comunque sono fatti in carbonio e ti permettono di ammortizzare il passo, di scaricare il colpo che arriva alla schiena, quindi ne va, cioè non è un capriccio, ne va proprio anche della salute del certo. corpo stesso. Del resto del corpo, certo. Può certo. variare, guarda, da 1.500 a 3.500 a 4.000 un piede, dipende, no? Però anche da corsa, la protesi in carbonio, sai, la classica lingua in carbonio, sì. Che non so se vi è capitato di vedere. Quelle di Pistorius, per intenderci. Ecco, ma lo vedi che ancora oggi, dopo tanti anni, dicono quelle di... È vero, invece che quelle di Giusy Versace. Ma si pare. Ma perché lui è stato il primo, forse che ha fatto un po' il giro del mondo con quelle immagini. Diciamo che ha ammazzato la moglie. Ha dimostrato, vedi, di non essere poi un supereroe, ma essere umano, perché con le sue fragilità ha compiuto un atto... sicuramente non è più belli, bisogna comunque riconoscere, resterà a lui il merito di aver acceso i riflettori sul nostro mondo, però va anche ricordato che prima di lui ci sono stati tanti italiani che hanno partecipato certo. a delle Paralimpiadi portando a casa risultati importanti e nessuno ne ha parlato. Oggi per fortuna i media danno più visibilità. Per esempio anche a Giusy Versace, certo. Tu per esempio hai vinto i campionati europei, ricordo bene? Un argento e un bronzo agli europei. Ecco, 400 metri femminili, giusto? Ragazzi, sai che lo chiamano il giro della morte, 400 metri, chiedetevi perché. Perché no, praticamente lo fai in apnea. Senti, la campagna, la tua onlus, si chiama Disabili No Limits, no? È un po' il titolo anche della tua vita, perché tu, da quando hai avuto l'incidente, prima hai ripreso a camminare, con fatica naturalmente, poi a muoverti, a correre, a fare sport, poi lo sport competitivo, agonistico, poi sono arrivate le medaglie, i record, poi la televisione, Ballando con le Stelle, la conduzione di programmi, ma questa è la tua indole, è sempre stato così o è successo dopo l'incidente, Giusy? Voglio chiederti questo. No, diciamo che io sono sempre stata un peperino, io non amo stare ferma, se sei con me di certo non ti annoi, anzi... ce ne siamo accorti. Quando la gente mi ferma per strada, magari mi fa complimenti, dice brava, c'è mio fratello di fianco che a bassa voce fa strano, stanno con te 24 ore. Certo, brava per pochi minuti, altrimenti diventa troppa vita, troppa... Però va detto che io sono stata una molto curiosa, che ho sempre amato le sfide, sono sempre stata molto adrenalinica e propositiva, ringraziando a Dio questo temperamento mi è rimasto, e forse il fatto di rischiare di morire, di vedere la morte in faccia, che vi garantisco non ha proprio una bella faccia, mi ha dato la grinta per vivermela questa vita. Davvero, io cerco di prendere le cose che più mi appassionano, che mi possono dare stimolo, non è che dico di sì a tutto, io faccio molta selezione, però se ci sono delle cose che penso che mi possano stimolare, che possano essere da esempio, allora lì ti ci butti altri, in tutti i sensi. Giusy, aspetta, Giusy, aspetta. 4-5-5-1-8. 4-5-5-1-8. Facciamo un appello, fai un appello di nuovo tu. No, infatti volevo dire, la Disability No Limits nasce nel 2011 proprio con l'obiettivo di regalare a tanti ragazzi opportunità di nuova vita. Non mi piace dire che regaliamo un braccio, una sedia a rotelle, una gamba, piuttosto che noi regaliamo nuove opportunità di vita. Tu hai parlato del ragazzo alla Stramilano, no? Di Constantine. Sì. Potrei farti altri esempi. Al sud ancora oggi la gente purtroppo si vergogna, non esce di casa perché vive l'handicap con difficoltà. Ma lasciamo che si vergognino i delinquenti. Ma chi è che vive con un handicap deve uscire testa alta? La vita è bella. Perché dobbiamo vergognarci solo perché abbiamo un braccino corto o una gamba in meno? E sarebbe ancora più bella se queste protesi, la possibilità di avere accesso a queste tecnologie fosse in qualche modo anche riconosciuta. Tu prima dicevi non è nemmeno menzionata nella possibilità di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Invece sarebbe bello che anche grazie a questa campagna ciò prima o poi avvenisse. Intanto 4-5-5-1-8, insomma, speriamo che... 2 euro, guarda il costo del caffè. Non so adesso quanto, non so, a Milano Ci siamo quasi a 2 euro, ci siamo quasi. No, ancora no. No, per fortuna non siamo ancora a 2 euro. Grazie mille, soprattutto io mi porto a casa la tua bellissima frase: ho visto la morte in faccia e non ha una bella faccia. Grazie Giusy Versace. Ciao. Grazie mille. Buona domenica, mi raccomando, dimmi. Vedi il collegamento anche voi, cellularino in mano, 45518 fino al 24 aprile. È importante, contribuite a regalare un sorriso. Giustissimo. Brava, giustissimo. Grazie mille. 45518 il numero per donare 1-2 euro. Grazie a Giusy Versace, buona domenica. E allora, che facciamo? Ci fermiamo, poi andiamo con gli ascoltatori, ripetiamo gli indizi per il personaggio della settimana che andiamo cercando. Ha raggiunto un traguardo ed è impegnato su più fronti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Va bene, tra le belle iniziative di questa settimana vogliamo menzionare anche il sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Adesso lo sentirete che annuncia lo sgravio del 100% di tutti i tributi fiscali alle imprese che denunciano il pizzo. Sempre di più va diffondendosi questa lotta e battaglia contro il pizzo. Ottima, buona pratica, sentiamo. È un regolamento che prevede che per accedere a queste agevolazioni per 3 anni, sgravi sostanziosi il 100% di alcuni tributi, è necessario che l'operatore innanzitutto sporga denuncia rispetto al fatto criminoso di cui è stata vittima. Dopodiché, nel caso in cui venga individuato il responsabile con un successivo rinvio a giudizio, per accedere a questa agevolazione è richiesto che la vittima si costituisca parte civile nel giudizio. Allora, in questo momento devo dire che sta crescendo, insieme alla fiducia nelle istituzioni, la voglia di collaborare e di dare una mano. Questo lo riscontriamo da parte dei commercianti. Le organizzazioni di categoria stanno dando dei segnali molto forti e molto incoraggianti. Bravo sindaco di San Severo, andiamo avanti. Bravissimo. Così. Pietro da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Vai. Stavo tentando di rispondere al personaggio. Ma? Nuovo. Sì, vai. Pensavo a Massimiliano Allegri. Per l'allenatore, giusto? Sì. Sì, sì, sì. Per quale motivo? Ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Giusto. Ed è in corsa per altri traguardi. Giustissimo, in effetti è tutto molto giusto, tranne il nome del personaggio. Che non era lui, non è quello che avevamo scelto. Grazie, grazie però mille a Pietro da Milano. Volevi dire che si era avvicinato? No, c'è stato un attimo così di... Vabbè, Patrizia, sempre da Milano, benvenuta. Ciao, sono Patrizia. Allora, volevo rispondere al vostro quesito. Yes, prego. Allora, per me è la canzone Ti amo Tozzi, 30 anni. Il compleanno, il trentennale della canzone Ti amo di Tozzi. Siamo contenti, sì, che ci hai aiutato a ricordare questa notizia, ma non è il personaggio che avevamo scelto. Eh no, in effetti c'è stato un attimo di tentennamento su Pietro da Milano, che ha dato un'altra risposta. Chi ha sentito si sintonizzi su questo, che potrebbe essere anche un mezzo indizio. Comunque ripetiamo brevemente gli indizi, quelli veri. Ha raggiunto un traguardo ed è impegnato su più fronti. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original man, stop man, pon your case, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, blu per Crociano. Adesso è molto vicino Daniel Ricciardo. E Vettel è secondo, ragazzi. Vettel è secondo. Quando mancano, cosa mancano? Non ci mancano due giri, due giri. Siamo al penultimo. Da lui, traiettorie diverse. Un altro secondo per la cronaca in diretta. E vi daremo il risultato del Gran Premio, credo, in tempo reale, tra pochissimo. In realtà, la colonna sonora Like to Move It non è dedicata al Gran Premio di Formula 1, ma ad un altro modo di muoversi, soprattutto per le città. Lasciate la macchina. A casa, nei parcheggi. Sì, non pensate alla Formula 1. Quella guardatela in televisione, va benissimo. Sfogatevi sui videogiochi oppure sui circuiti, eccetera. Stai eccetera. Proponendo una Formula 1 green, secondo me. Esatto. Pedali e macchine elettriche. A piedi. Non credo che gli sportivi saranno contenti, nemmeno a pedali Settel. O sui mezzi pubblici. A Bologna arriva una iniziativa nuova che premia queste persone qua. Abbiamo in collegamento l'assessore a mobilità del Comune di Bologna, Irene Priolo. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Grazie per essere con noi. Allora, si chiama Bella Mossa questo progetto. Ci spiega come funziona, un progetto a punti che premia, chi premia? Allora, è un progetto pilota perché siamo all'interno di un progetto europeo e Bologna è stata scelta come città pilota e premia i cittadini virtuosi che si spostano in maniera sostenibile. Quindi, come avete detto voi prima, premia quei cittadini che decidono di non utilizzare la macchina ma che in modo sostenibile utilizzano la bicicletta, l'autobus, il treno, il carpooling, il car sharing oppure vanno a piedi. Pedali, pedoni e pendolari, però anche car sharing e bike sharing. E come funziona? Come si fa a calcolare tutto questo? Come si fa a comunicarvi? Giuro, ho preso l'autobus. Allora, da questo punto di vista noi abbiamo creato attraverso la nostra agenzia della mobilità, che diciamo gestisce tutto il progetto, un'applicazione alla quale i cittadini si possono iscrivere, possono scaricare, e questa applicazione registra i movimenti. Quindi è un'applicazione che da questo punto di vista mappa in maniera appropriata e veritiera gli spostamenti dei cittadini. Quindi se ho lo smartphone in tasca, con questa app non posso imbrogliare. Esattamente, uno non può imbrogliare. Poi da questo punto di vista sta diventando una vera e propria sfida. Noi ci eravamo posti l'obiettivo di avere 10.000 iscritti nell'arco di 6 mesi, perché il progetto è partito il 1° di aprile e terminerà il 30 di settembre, ma in una settimana di vita di questo progetto ne abbiamo già raggiunti 13.400. Complimenti, straordinario. Siamo assessore, oltre ogni aspettativa. Bravo. Cioè, io direi potete già chiudere a questo punto perché avete raggiunto il top. No, però... E poi è ottimo, siete partiti il 1° aprile, poteva sembrare uno scherzo. Invece giustamente no. Però scusi, assessore, è bellissimo, sì. È tutto bellissimo, però perché solo sei mesi? Non si potrebbe andare avanti? Perché uno entra in questa idea bella, questa filosofia, magari si compra anche la bici, fa questo investimento, allora, vi viene dietro. Da questo punto di vista, adesso la città di Bologna, la città metropolitana, stanno lavorando alla redazione del piano della mobilità sostenibile e questo lavoro che stiamo facendo in realtà è un lavoro che a noi servirà non soltanto per premiare i comportamenti virtuosi ma anche per raccogliere i dati veri degli spostamenti dei nostri cittadini. Questo lavoro dovrebbe terminare nell'arco di questo anno, ma visto il successo che sta avendo questa iniziativa io stavo già ragionando con l'Agenzia della Mobilità di come poterla proseguire, perché per noi è un'esperienza pilota che deve indurre il cambiamento nei comportamenti, quindi devi dire: caro cittadino, se sei bravo io ti premio. Dopodiché che il cambiamento del comportamento dovrebbe standardizzarsi, però è ovvio che 13.400 iscritti in una settimana non ce li aspettavamo neanche noi, per cui se questo progetto virtuoso può proseguire, ben venga. Certo, ma che cosa si vince? Speriamo, che cosa esatto. Si vince con questi punti? Uno raccoglie i punti e poi? Allora, uno raccoglie i punti, poi c'è l'estrazione, ovviamente si vincono mezzi sostenibili, quindi una bicicletta elettrica piuttosto che un motorino elettrico o anche... No, però questa è l'estrazione, che se posso dire, è in questo meccanismo che mi sembra molto bello e molto virtuoso, ovvero chi raccoglie più punti ha più sconti, invece poi il meccanismo dell'estrazione, che invece torna alla fortuna, quindi basta che uno abbia preso l'autobus una sola volta che partecipa all'estrazione... Non torna alla fortuna, torna a chi ha accumulato più punteggi, quindi chi si muove in maniera più sostenibile, quindi alla fine avrà... Guarda un attimo facciamo questo salto mortale perché che arriva là dietro, in diretta in seconda posizione la vittoria di Hamilton con la safety car, ma poi è andata a favore di Lewis Hamilton con la safety car che è transitata in pit lane secondo. Vince comunque Sebastian Vettel, secondo Hamilton e secondo Vettel. È un po' triste doverlo dare proprio in un momento in cui stiamo parlando di mobilità biciclette. Sostenibile, ma insomma, ma ci scusi assessore, ci scusi. Mancherebbe. Però voglio dire che chi ha guardato il Gran Premio seduto sul sellino della propria bicicletta vince due punti della vostra raccolta punti, così glieli regalo io. Soltanto se andava avanti. Esatto. No, però voglio dire, è molto carino questo progetto, anche perché sta consentendo la sfida anche tra le aziende, per cui ci sono anche le aziende del territorio bolognese che si stanno iscrivendo per fare una competizione tra loro e premieremo anche le aziende più virtuose. Quindi sta scattando un meccanismo competitivo sano e esatto. Noi vorremmo lavorare anche su questo. Molto bello. Tra l'altro chi conosce la città di Bologna sa che per esempio i mezzi pubblici, perché queste iniziative funzionano bene laddove l'offerta di mezzi pubblici è ampia e presente, insomma uno esce di casa e ha la speranza di trovare ragionevolmente un autobus nel giro di 10 minuti. Questo accade a Bologna. Quanto costa, però facciamo un piccolo esame, il biglietto dell'autobus a Bologna? Il biglietto dell'autobus a Bologna, la corsa diciamo singola, sì. 1,50 euro, 1,30 euro e 1,50 euro in vettura. Qual è la quindi differenza? Non è tantissimo. Perché se uno non ha il titolo di viaggio e sale in vettura lo può fare con le monetine, okay. Però in vettura costa 1,50 euro. Ah, bravi, bravissimi, certo. Si può fare anche in vettura, molto bene. Sì, 1,50 euro sì. Quello che costa a Milano, quindi costa anche meno di quello. Bravi, complimenti. E vabbè, abbiamo detto, gli autobus circolano alla grandissima, quindi si può andare in giro per Bologna con gli autobus, si può andare in bici, avete fatto da poco la ciclabile delle biciclette, la tangenziale. Sì, si può andare in bici, ma io direi anche in treno, perché questo progetto è metropolitano, quindi sì. Non riguarda soltanto il Comune di Bologna ma tutto l'agglomerato metropolitano, e noi abbiamo un servizio metropolitano che vogliamo incentivare. Questo è anche un modo per poterlo fare, insomma. E noi speriamo che questo progetto, caro assessore, possa andare anche oltre, come dicevamo prima, i sei mesi. Ma sta già capitando, perché stanno chiamando sindaci da diverse parti d'Italia per sapere come appunto abbiamo messo in piedi questa iniziativa. Benissimo, 13.000 iscritti in una settimana, bolognesi, se andate avanti di questo passo potete fare un record mondiale forse di iscrizione a una app comunale che dà punti a chi va con i mezzi sostenibili. Assessore, complimenti, grazie a tutti lì a Bologna. E grazie a voi, grazie dell'opportunità di aver spiegato questa cosa anche da voi. Grazie. Sono molto onorata, grazie, buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro, buona domenica. Buon lavoro a voi, buona domenica. In fondo è una cosa che costa poco, costa nulla, perché una app così è veramente una sciocchezza per un comune come... E che però crea tutto una... Vabbè, costa a livello di indotto, di organizzazione, del fatto di avere gli sconti. Però è tutto che torna tutto, perché torna in salute dell'aria, insomma lo sappiamo. E Raikkonen com'è arrivato? Lo sappiamo? Quinto? È arrivato quinto. Vettel secondo. Vabbè, dai, ci possiamo accontentare, eh? Sì, i ferraristi no, in regia vincere. Mi guardano Carmelo Rocella, come dire, vai, sì, secondo. Volevamo vincere i due di fila. Allora, traffico, torniamo tra pochissimo, 800 24 00 24, se volete commentare anche la ricetta del Comune di Bologna per incentivare i mezzi sostenibili, bici, anzi pedali, pedoni e pendolari. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Noi siamo Los Noiosos, un trio di personalità politiche così vivace che negli zoo usano i nostri discorsi per stordire i gorilla. Da quando ci siamo noi tre, una spessa coltre di noia ha mantato il paese. Comunque. Noi non facciamo notizia mai, mai un passo falso, mai un passo avanti, mai un passo indietro. Però sono sicuro che in fondo agli italiani il nostro modo discreto, il nostro governo con le pattine, diciamo, piace. Dopo tre anni col fenomeno capirai, meno fai più ne esci da gigante. Una pausa di Lexotan prima che torni lui. Perché è sicuro che torna, vero lui poi? Torna. E va bene, questo era Crozza. Era Crozza con Lo Snoioso, cioè l'imitazione di Mattarella, il ministro Padoan e il premier Gentiloni. Un trio di noiosos. Allora, siamo in grado di dire anche la classifica di Formula 1 a questo punto, dopo due Gran Premi, che no, è troppo di complicato per noi, non ce la possiamo fare. No, aspettiamo ma, che cioè, di fare le somme. Lo può fare chiunque, basta aprire un sito, ma insomma non mi sembra il nostro. Mi medesimo nell'ascoltatore che sta appassionato di Formula 1, che vuole sapere a questo punto come stanno in classifica. Magari l'ascoltatore lo sa già da solo. Alessandro da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. No, io sono appassionato ma non seguo così nel dettaglio. va bene. Posso darvi questa risposta. Non importa, assolutamente. Sopravviveremo. Cosa volevi dire invece? Mentre invece per me il personaggio è Marchionne, il personaggio misterioso. Mai Marchionne, la notizia legata a Marchionne di questa settimana? Qual è il traguardo? Marchionne perché sono impegnato su diversi traguardi e l'altra settimana la Ferrari ha vinto il suo primo traguardo da un po' di tempo, lui sì. Essendo coinvolto direttamente, quindi per riflesso lo vedo coinvolto. Torna tutto e oggi è arrivato secondo Vettel, però sarebbe stato tutto giusto, ma non è il personaggio che avevamo scelto. Grazie Alessandro. Grazie. Va bene, grazie, ciao a tutti. Andiamo, ciao, con Giancarlo da Roma. Vai Giancarlo. Sì, ciao. Ciao. Per me il personaggio della settimana è Giorgio Chiellini, perché ha conseguito la laurea magistrale, è impegnato come calciatore, è impegnato anche come... in attività di beneficenza. Quindi è impegnato su più fronti. Sì. E poi giocando a calcio è impegnato anche nella Champions League, nella Coppa Italia, ha raggiunto questo traguardo, allo scudetto. E però era lui. Era lui, è chiaro. Era lui che ci è piaciuto molto della sua sì. laurea, sì, siamo sì. contenti. E questo noi io non posso dirlo, però diciamo che in qualche modo è anche una risposta a Poletti, che giustamente dice giocando a calcetto poi si trova da lavorare, e direi che Chiellini è perfetto in questo curriculum e calcetto. Complimenti Giancarlo, ti porti a casa il premio di oggi, un libro, sarai contattato dal nostro centralino e poi cerchiamo sempre di regalare libri anche a tema in base a quello. Quindi che sono è dei testi universitari in questo caso sui quali ha studiato Chiellini. Abbiamo ancora qualche minuto e vogliamo darvi un'altra notizia sul filone delle cose sospese, che noi è un filone che abitiamo molto. Se mi guardi tu mi fermo in un istante, il mio pensiero poi si perde su di te, così distrattamente da non sentire il tempo che passa. E se è vero che l'amore parla, e se è vero che insegna a sognare, questa notte rimango sospesa a specchiarmi sul mare, ho imparato a volare. E se è vero che l'amore balla sopra i tetti e sui cuori del mondo, questa notte rimango ad aspettare per vedere. È sospeso, Lorenzo Fragola. Bellissimo. E sospesi sono, bellissima, i caffè a Napoli che si possono offrire. Certo. Abbiamo raccontato il giocattolo sospeso, i regali a Natale per i bimbi, regali sempre a Natale. Qualche settimana fa il pane sospeso in centro a Pavia. Sì signori. E adesso una nuova bellissima iniziativa di aiuto a chi ha più bisogno. Però questa è un po' particolare, perché uno non se l'aspetta. È il biglietto del teatro sospeso. Sospeso. E allora ringraziamo e salutiamo Dennis Fontanari, direttore creativo di Aria Teatro, associazione che gestisce il teatro di Pergine. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per la telefonata. Allora, buongiorno. Perché avete pensato di fare questa iniziativa che uno appunto non, magari non si aspetta, perché se pensiamo ad aiutare qualcuno che è in difficoltà non è la prima cosa che può venire in mente come gesto di solidarietà, regalare un biglietto di teatro? Ma intanto perché crediamo che al di là dei bisogni primari, che ovviamente sono i primi da accontentare, che sono la casa, il cibo, ma crediamo proprio che l'individuo viva anche di altre cose. Ha molte sfaccettature, compresa questa. Molto giusto, molto giusto, condividiamo. E quindi noi partiamo già da una nostra concezione per la quale tentiamo di tenere i biglietti già a prezzo basso rispetto al tipo di spettacoli che facciamo, anche di importanza nazionale che ospitiamo, tentiamo di tenere un prezzo più basso. Tipo quanto? Tipo il prezzo massimo del biglietto teatrale sono 16 euro, quando diciamo in tante città si arriva sui 30. È un ottimo prezzo, molto basso, perché uno dei grossi problemi spesso del teatro è che i biglietti costano 32 euro, se uno ha due figli deve spendere 140 euro solamente per il biglietto, più magari va fuori a cena, sono 300 euro e diventa impossibile. Il biglietto è basso, alcuni però li regalate pure, ma ci state dentro poi con i conti, sì? Riuscite. Ci stiamo dentro, noi raggiungiamo un dignitoso pareggio alla fine di ogni anno e questo poi è l'obiettivo. Complimenti. E invece il biglietto sospeso come funziona? Il biglietto sospeso è un'idea che avevamo da un paio d'anni, poi siamo riusciti a realizzarla da quest'anno anche in collaborazione con il Festival Estivo di Pergine Spettacolo Aperto. È stata messa una piccola cifra da noi dal Festival, contenuta proprio poche centinaia di euro per partire. Dopodiché noi abbiamo detto mettiamo ogni biglietto che viene dato, addirittura lo facciamo a metà prezzo, quindi a 8 euro, usando inizialmente questa cifra iniziale. Poi abbiamo messo nel foyer un'urna, un'opera d'arte, una piccola opera d'arte fatta da un autore locale, in cui ci potevano, tutti gli spettatori possono mettere versare il resto, qualcosa, versare, mettere il resto quando passano in cassa, vicino alla cassa. Perfetto. E questo ha aumentato un po' la volta. Quindi avete creato un budget di tutto rispetto. Che subito è stato usato tutto, perché abbiamo soprattutto coinvolto associazioni o cooperative. Ecco, come scegliete appunto i destinatari di questo biglietto sospeso? Cioè uno viene e si autocandida oppure si passa... No, non saranno mica i critici che passano di lì e vogliono il biglietto gratuito? Quegli scrocconi dei critici. No, non sono gli scrocconi dei critici. Diciamo che la maggior parte dei fruitori vengono in gruppo e sono legati ad esempio ad una cooperativa che si occupa di problemi psichiatrici, che certo. È qui a Pergine. A Pergine c'è una grande tradizione sulla psichiatria, perché c'è un manicomio, oppure spesso richiedenti asilo portati in gruppo. A questi si aggiungono poi sporadici, però chiaramente quel passaggio lì è un po' più delicato, anche perché qualcuno come singolo si vergogna magari andare a chiedere il biglietto sospeso, quindi abbiamo pensato che fosse più facile andare a gruppi, ad associazioni, ad organizzazioni. Mi sembra che la state organizzando benissimo. Ho un certo affetto anche in generale per Pergine, perché ho recitato quando ero molto giovane a Castel Pergine, ho quasi debuttato in Trentino, e quindi ho molto affetto nei vostri confronti. Però sei venuto anche a presentare il libro. Certo che sì, certo che sì. Nel foyer del nostro teatro. Esatto, vabbè, caramba. Adesso, questo perdonami perché sono stato in due posti e me l'ho dimenticato, è verissimo. Certo che sono venuto nel foyer. Sei svegliato adesso, Carlo. È stata una presentazione straordinaria dove c'era tantissima gente, e veramente ringrazio ancora tutti. Grazie allora, mille. Io invece ringrazio te, Dennis Fontanari, per questa iniziativa, direttore creativo di Aria Teatro a Pergine, e speriamo che altrove qualcuno ci stia sentendo e voglia fare la stessa cosa, il biglietto del teatro sospeso. Grazie, è tutto. Grazie mille. Noi ci risentiamo il prossimo weekend, sabato prossimo. Salutiamo e ringraziamo Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, una squadra fortissima, Carmelo Lauricella oggi in regia. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini, anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.